Storie italiane. La lumaca e il ciliegio. C'era una volta, in un grazioso giardino, un magnifico albero di ciliegie. Le ciliegie sembravano piccoli rubini rossi che brillavano luminosi mentre pendevano dall'albero. In questo giardino viveva anche una piccolissima lumaca. Il suo nome era Shelly. Shelly era una lumaca felice. In primavera e in estate giocava con le farfalle e guardava gli uccelli. Ma durante i freddi inverni, Shelly si raggomitolava tutta nel suo caldo guscio e dormiva profondamente. Quando uno di questi inverni finì, Shelly si svegliò dal suo lungo sonno e uscì dal suo guscio. Sbirciò per assicurarsi che la primavera fosse davvero arrivata e con sua grande gioia era arrivata. Vide tutti i fiori stiracchiarsi allegramente al sole. Guardò mentre le api ronzavano intorno baciando i fiori e le farfalle danzando in qua e in là, cogliendo la primavera nel giardino. Mentre Shelly passeggiava nel giardino, ammirando la bellezza, il suo stomaco improvvisamente borbottò. Oh, ho mangiato così poco durante l'inverno che potrei mangiare qualsiasi cosa. Ma cosa potrei trovare in questo enorme giardino? Si guardò intorno e poi i suoi occhi si posarono sull'enorme ciliegio. Oh, il ciliegio? Yum! Mangerò tutte le ciliegie dolci e succose. Spero che siano gustose. Così Shelly si arrampicò sull'albero e iniziò la scalata. Mentre raggiungeva le radici contorte, una rana spuntò da dietro i cespugli. Era il signor Croaky, un amico di Shelly. Ciao, Shelly! Dove stai andando in questa meravigliosa mattina? Oh, ciao, signor Croaky! Sono molto affamata e voglio mangiare le ciliegie che crescono in cima a questo albero. Ma Shelly, mia cara, non ci sono ciliegie su quest'albero. Ci sono a malapena le foglie. Forse non ora, ma presto, quando avrò raggiunto la cima, ci saranno. Se avessi gambe come le mie, che possono saltare molto più in alto, non dovresti faticare così duramente. Vado a prendere delle mosche per colazione. Vorresti venire con me? No, grazie. Sono sicura che le mosche sono una cosa deliziosa per te. Sei sicura? Le mosche sono succulente proprio come le ciliegie, sai? Forse anche di più. Sì, sono molto sicura di non voler quel tipo di succosità. Beh, ciao, signor Croaky. Devo andare. Goditi il tuo... cibo. E così saltellò via dietro alle mosche. Ma nella fretta saltò troppo forte e sbatté contro un albero. Per fortuna non salto, mi limiterò a strisciare al mio ritmo. Mentre strisciava lentamente e felicemente, raggiunse il possente tronco. Lì incontrò un altro suo amico, Bumble, l'ape. Bumble arrivò ronzando non appena vide Shelly. Shelly, cosa stai facendo qui? Sei qui per goderti la brezza? No, Bumble, sono qui perché voglio mangiare le ciliegie dolci che crescono su questo albero. Ciliegie? Ma crescono solo in estate! Ora ci sono solo le foglie! Sì, vedo le foglie. Conosco la differenza tra foglie e ciliegie, grazie. Ma io sono lenta e quando raggiungerò le ciliegie sarà già estate. Veramente? Allora ti aiuterò! Quando sarà il momento delle ciliegie, cavalca la mia schiena e ti porterò veloce in aria. No, grazie. Questo mi stordirebbe davvero troppo. Potrei persino cadere e rotolare via. Non cadresti affatto. Sarebbe un viaggio molto sicuro. Ma va bene. Se non vuoi, non lo faremo. Addio. Spero che tu abbia le ciliegie più succose di sempre. E così ronzò via. E mentre lo faceva, Shelly girò la testa e si arrampicò lentamente verso l'alto. Durante i giorni, Shelly a volte era molto stanca, ma pensava alle brillanti ciliegie rosse e ricominciava a salire. E quando le notti calavano, lei si infilava nel suo guscio e dormiva fino al mattino, e la mattina dopo ricominciava a salire. La stagione si stava lentamente trasformando in estate e la piccola Shelly vide che l'albero aveva già dei boccioli di fiori su di esso. Mentre guardava, sentì improvvisamente un forte vento su di lei. Era la sua amica Wingsy. Oh, ciao Wingsy! Mi hai quasi spazzata via! Ciao Shelly! Sei qui per vedere i boccioli di fiori? Sembrano belli, vero? Non incredibili come il gusto delle ciliegie che diventeranno e che io voglio così tanto. Ciliegie? È per questo che sei qui? Ma ci sono solo questi boccioli di fiori. Sei arrivata troppo presto. No, Winxy. Non sono venuta qui presto. Sono in perfetto orario. Se avessi ali grandiose e magnifiche come le mie, potresti aver volato facilmente in cima. Guardale! Non sono meravigliose? Non sono così? Addio! Grazie a Dio non ho le ali. Ah! Shelly continuò. C'era solo una direzione in cui lei andava, in alto. Quando raggiunse i rami, vide che l'albero era coperto di bellissimi fiori bianchi. La loro fragranza riempiva l'aria e il giardino. Quando si fermò ad annusare i fiori, vide due uccelli seduti che cinguettavano felici. Ehi, non è Shelly? Dove? Dove? Oh, sì, è lei! Com'è arrivata qui? Ciao, Shelly! Cosa ci fai qui, così in alto sull'albero? Non è troppo alto per te? Oh, ciao! Sì! Non sono mai arrivata così in alto. Sono venuta qui perché voglio mangiare le dolci ciliegie che crescono su questo albero. Sei salita fino a qui per le ciliegie? Non è stato difficile? Certo che l'è stato. La salita è stata lunga e io ero così affamata. Ma ogni volta che pensavo alle ciliegie continuavo a salire. Ed è stato anche molto divertente perché ho incontrato molti amici. Questo è davvero ammirevole da parte tua. Ma mi dispiace molto per te, perché ci sono solo fiori sull'albero. Non preoccuparti, il mio viaggio non è ancora finito. Devo salire ancora un pochino più in alto. Bene, allora arrivederci. Devo continuare per la mia strada. Gli uccelli salutarono Shelly mentre continuava a salire i rami. Molto presto raggiunse la cima dell'albero. Era molto stanca, ma mentre si guardò intorno, era circondata dalle più belle ciliegie rosse che avesse mai visto. Wow! Sembrano tutte così succulente! Quale devo mangiare? Quale devo mangiare? Oh, non importa, le mangerò tutte! Shelly mangiò e mangiò fino a quando non fu così piena da non poter più mangiare niente. Era diventata cicciottella come una ciliegina. Oh, sono così piena! Sono felice di non essermi arresa. La salita è stata lunga e difficile, ma il risultato è delizioso. E infatti, Shelly era felice. Aveva lavorato sodo e aveva avuto pazienza nella sua scalata e nei suoi sforzi. Shelly ha dimostrato che se vuoi davvero qualcosa, non devi mai rinunciare.